Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. I fuori onda sono davvero pericolosi. A cascarci questa volta il primo ministro russo Dmitry Medvedev. Non si è accorto di avere il microfono ancora acceso e si è lasciato andare a dichiarazioni a dir poco sconcertanti. Nella valigetta con i codici nucleari, il presidente conserva una cartella top secret che contiene informazioni sugli alieni che hanno già visitato il nostro pianeta, sostiene il primo ministro. Insieme c'è anche un dossier riservato sul monitoraggio delle presenze extraterrestri nel nostro paese. E la conclusione del discorso di Medvedev lascia davvero senza parole. Potete trovare informazioni più dettagliate a riguardo nel film Men in Black. Non posso dirvi quanti alieni sono tra noi al momento, se no scatenerei il panico. È noto che io ami ogni mio glorioso pregiudizio, quindi questa mattina non ho proprio nessuno scrupolo di parlare degli alieni. Questa volta non ne voglio parlare con il solito tono divertito di chi la sa lunga, di chi prende in giro gli ingenui, di chi fa parlare gli avvistatori, le persone che sono state rapite dagli UFO, chi pensa che provengano dai messaggi di Medjugorje o dalle grandi piramidi. Non mi interessa molto questo, mi interessa il fatto che una volta tanto, forse la prima volta, un'autorità che non abbiamo motivo di pensare che sia stato in stato di ebbrezza, ha dichiarato, il premier russo Medvedev non è proprio l'ultimo degli avvistatori di UFO, che quello che sempre abbiamo sospettato, che è stata la trama segreta e suggestiva di tanta narrativa di fantascienza, che i grandi governi mondiali, fra i tanti segreti che conservano, c'è quello appunto delle contaminanti irruzioni di esseri che non sono nati nel nostro pianeta e che naturalmente o lasciano messaggi o lasciano minacce o hanno comunque avuto incidentali o volontari contatti con il nostro mondo. Io non so se già l'ho detto, ma sì, l'ho detto. Penso che in realtà le due grandi cose che mi piacerebbe vedere prima di andarmi da questa avventura terrena sarebbe proprio quella, la conferma dell'esistenza degli UFO e il viaggio nel tempo. Il viaggio nel tempo sarebbe una cosa fantastica, ma sono due cose che ancora non mi sembrano possibili alla luce delle tecnologie che promettono la risoluzione di ogni problema e ogni dilemma. Mi piacerebbe vedere il viaggio nel tempo e la irruzione e finalmente vederli in piazza, camminare, poterli toccare, andarci a mangiare una pizza assieme, non soltanto attraverso la testimonianza di terzi, è solo l'aspetto leggendario. Beh, voi come ne pensate rispetto al problema degli UFO? Mi rendo conto con i tanti problemi che ci sono questa mattina, la sovranità nazionale, il Partito Popolare Europeo, Monti, Berlusconi, è lontano dalla percezione dell'Italia, che fra l'altro è anche metà coperta dalla neve, ma immaginate un attimo di porvi questo problema. Cosa per voi significherebbe il contatto con qualcuno che non ha nulla nel suo DNA di assimilabile alla nostra specie umana? Sarebbe un contatto interessante, sarebbe un contatto terrificante, ci insegnerebbe veramente qualcosa, o sarebbe finalmente, se Dio vuole, l'inizio di una vera grande guerra totale, tutti contro tutti. 800 24 0024. Dalla seconda guerra mondiale il governo britannico osserva i cieli. Sepolti nei sotterranei del Ministero della Difesa ci sono migliaia di rapporti di avvistamenti UFO, alcuni inspiegabili. Ora, dopo decenni di segretezza, i dossier sono resi pubblici. E per la prima volta viene mostrata la verità sugli UFO in Gran Bretagna. Una collisione sfiorata. Non sapevo cosa fosse. Davvero. E ancora oggi non lo so. L'incontro ravvicinato di un bombardiere. Non ne parlo con molte persone, solo con gli amici più stretti. Un oggetto non identificato apparso sul radar. E nuove prove su uno dei più famosi casi UFO. La Roswell britannica. Se si potesse dimostrare... Ormai è così fitta, è così intensa, così replicata la trattatistica, la lettura romanzata, la fantascienza nei confronti degli UFO, che sappiamo tutto, sappiamo, ci sembra di sapere tutto, possiamo ancora scherzare, ridere, vedere l'ultima puntata della saga di Men in Black, capire che in realtà siamo tutti convinti, sappiamo tutti che a un certo punto, quando uno di noi viene chiamato e dice oggi tu sei il presidente degli Stati Uniti oppure tu hai sotto la grande Russia, ti viene data una valigetta con tutti i segreti militari, con i pulsanti per far partire i missili, con le varie formule segrete, e poi c'è il dossier UFO, dove finalmente questo uomo fortunato vede quanto c'è di realtà dietro quei cadaveri di UFO spezzettati, mummificati, che ancora ogni tanto ci fanno rivedere, dietro i tanti avvistamenti, dietro le innominabili sonde intrusive che raccontano migliaia di persone aver subito in rapimenti alieni e tutto il resto. Beh, voi siete convinti che veramente qualcuno sappia? E chissà perché non dice. Cosa cambierebbe l'umanità oggi se tutto ciò che ha visto come fantascienza qualcuno dicesse che è realtà? La nostra fiducia nel reale ormai è talmente labile, la nostra fiducia anche nelle prove visibili e di qualche realtà, abituati come siamo ormai a ogni fanta reinterpretazione della realtà attraverso il cinema. Oggi il cinema ci fa vedere qualunque cosa, quindi siamo abituati a qualunque cosa possa accadere. Diteci se in realtà sapete dove stanno questi omini verdi che tanto ci fanno sognare. Chi ha costruito le piramidi d'Egitto? William Henry ritiene che esistano prove schiaccianti sulla loro costruzione per mano aliena. Credo che le piramidi siano un enorme apparato energetico in grado di trasmettere e ricevere energia da punti distanti dello spazio. La chiave di tutto è la loro posizione, al centro esatto delle terre emerse. Giusta o errata che sia, l'idea che migliaia di anni fa gli alieni abbiano fatto visita alla Terra, cambiandone per sempre la storia, si diffonde a macchia d'olio. Prima di von Däniken, molti altri personaggi, scettici nei confronti del diffusionismo, avevano portato avanti le proprie teorie sull'evoluzione dell'intelligenza umana. Pensate quanto sarebbe affrancata l'umanità di tanti falsi problemi che ci facciamo ogni giorno. Pensate quanto sarebbe relativizzato ogni questione politica. Ma chi se ne fregherebbe più di Alfano, di Beppe Grillo, di Bersani, di chiunque, se improvvisamente scendessero qui a Piazza del Popolo o a Milano davanti al Duomo o a Torino, nelle più suggestive aree della città, l'astronave con gli UFO, tutti andrebbero a guardarli, a vederli, dimenticherebbero tutto, improvvisamente la gente abbandonerebbe ogni falso problema, ogni mucillaggine mentale che ci opprime e penserebbe soltanto a loro. Poi ormai di questi grandi segreti, che le piramidi sono in realtà una sorta di osservatorio costruito dagli alieni, che gli antichi egizi erano alieni, che tutti i santi, che tutti gli avatar, che tutte le manifestazioni divine altro non sono che successivi passaggi alieni della Terra, lo sanno tutti. Le copie della grande piramide, dentro ci si può mettere il fagiolo e vederlo mummificare, o si può tenere per concentrare la propria positività mentale, le vendono anche le bancarelle dei cinesi qui sotto la radio, quindi dov'è la sorpresa? Enrico, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Niente, io pensavo che praticamente ci sono già. Io vedo a volte per strada gente con una faccia strana, sguardo un po' fisso, un po' insensibili, scostanti, freddi, e magari sono fra noi, ci stanno guardando, analizzando, stanno studiando senza farsi magari alcun male. Sono quindi questa è una sua ipotesi, che esistano, sono già mimetizzati fra noi. Sono molto più avanti, più lontano, stanno solo guardandoci per capire la nostra civiltà che magari non la capisco. Ma che c'è da capire? Quando uno c'è stato una settimana ha capito tutto. Ma non è che siamo... credo, se sono menti particolarmente lontane. Non so se lei ha visto, sicuramente è una persona culturata, l'invasione degli ultracorpi. Certo. Classico, no? E c'era queste persone il baccellone spaziale. Esatto, venivano completamente plagiate, si inserivano nel corpo di uno e poi in questo contesto magari stanno... Ma io le vedo anche per televisione, no? Le persone ci hanno fatto talmente strana, mi sembra... A volte sì, adesso lei sta facendo battute, io sto parlando seriamente, guardi, no, ma scherziamo. Non sto facendo battute, veramente, io penso che a volte... Incontro anche per strada quello lì, per me è una... Ma perché non ha mai fermato uno e dice ti ho scoperto, sei un alieno? No, questo teme. No, però penso che ci siano, e non mi dispiace anche questo concetto che ci siano fra noi e sì che... Però a me sta bene anche questo, vorrei capire a un certo punto perché non levano la maschera, ci danno i famosi occhiali forse, come in un altro film di fantascienza che fa vedere i loro volti alieni. Ci vuole un po' più di tempo. È di tempo, aspettiamo da secoli, capito? Vabbè, la saluto Nicoletti. Grazie. Prego, Massimo. Salve. Sì. Ciao. È sicuramente un tema affascinante anche. Però giuro, questa mattina non voglio prendere in giro chi chiama. sono seriamente interessato a capire qual è la percezione del fenomeno alieno, perché sono convinto che concentrarsi sugli alieni ci fa dimenticare ciò che è alieno da noi nei nostri consimili terrestri. Prego. Sì, non soltanto nei nostri consimili terrestri, perché anche se guardiamo la natura come è conformata, degli esempi di cose che sembrano veramente non appartenenti a questa terra. Comunque, pur essendo affascinato come tanti altri, anche da ragazzino lo ero, di fantascienza eccetera, qua su e giù, c'è un aspetto un po' messianico in questa attesa, in questa rivelazione, come se aspettassimo qualcuno che venga a salvarci e a porre rimedio a quello che noi non sappiamo rimediare. E però quando, pur essendo affascinati da queste cose, quando succede veramente, come è successo a me, dunque io... Lei ha avuto un contatto, quello che pensa che sia un contatto? No, io ho avuto erano 4:16 del mattino, mi sono svegliato bruscamente, sono andato, non c'erano rumori, sono andato alla finestra del bagno che era verso il mare, e a una quarantina di metri c'era una sfera di luce che poteva sembrare un sole. Al primo momento pensavo a un incendio, un sole che si muoveva lentamente, passava dietro un albero. Io al primo momento sono rimasto basito, poi sono corso in salotto, ho fatto tempo a tornare con una macchina fotografica, l'ho filmato, un filmato dura più di 20 secondi. E cosa si vede? Si vede questa sfera sospesa da terra? Questa sfera che si muove attraverso un albero. Adesso le faccio la domanda, però. Persone come lei... Siccome questa cosa era già successa 2-3 anni fa, di sfere di luce che venivano... E chi l'aveva vista prima? Di Venezia. Delle ragazze insieme con dei turisti le avevano fotografate col telefonino, ma non era un'immagine nitida. Comunque, non è, tante volte si chiede, uno dice questa cosa è questo. Io non, per esclusione vorrei che qualcuno mi dicesse: non è un pallone aerostatico, non è un aereo, non è un riflesso, non è una luce, una lanterna, qua su e giù. Perché ho fatto anche le prove, abbiamo fatto delle prove abbastanza... Posso fare una domanda? Scusi Massimo, lei prima di questa sua esperienza era un ufologo, quelli che leggevano i libri, erano appassionati, aspettava messaggi alieni, oppure è entrata nella sua vita così? Sì, no, glielo dico, dal punto di vista psicologico sta bene. Ammetto l'aspetto di attesa messianica, cioè noi aspettiamo qualche cosa, che qualcuno ci venga un po'... Quindi lei già aspettava che arrivasse? Un po' a salvare, poteva essere affascinante nella mente di un bambino le astronavi, i viaggi, le cose, queste giù. Dopo, comunque, le ripeto, quando io ho visto tante foto, tanti filmati, eccetera, però sono molto... ormai sono molto freddi, perché so che cosa si prova a vedere qualche cosa lì. Un'ultima cosa, Massimo, poi c'è molte persone che hanno telefonato. Persone come lei che hanno avuto questa esperienza si trovano di fronte al dilemma di doverla trasferire agli altri, perché immagino che abbia una grande ansia di dire: ma io l'ho visti, ci sono, ho visto qualcosa che nessuno mi spiega. Arriva a un certo punto la condizione per cui dice: ma è meglio che non ne parlo, che sono stufo di essere preso in giro o di non essere creduto. No, in questo no, in questo anzi so che da parte di molti ci sarebbe molta curiosità. Io mi sono limitato a trasmetterlo al Centro Ufologico Nazionale, questa cosa, questa documentazione, e l'ho tenuta un po' mia, perché non essendoci una caratteristica di tecnica, diciamo, non ho visto un'astronave, degli oggetti. Ho visto solo la luce, quindi non ha più... Questa cosa qua mi ricordava molto, cioè, per analogia, quando si parlava di le apparizioni, cioè un angelo appare in una sfera di luce o qualche cosa del genere, poteva essere quello che una volta... Si vanno a ricongiungersi, diciamo, i due filoni, quello delle visioni mistiche e quello delle visioni legate appunto all'idea che possano essere alieni che vengono da un'altra dimensione. E ci sono dei punti di contatto, ci sono veggenti, ne ho conosciuti tanti, che a un certo punto spiegano ogni divina eruzione, ogni apparizione mariana come un fenomeno ufologico, ma alla fine si tratta semplicemente di mettersi d'accordo a quale universo di riferimenti vanno attribuito tutto ciò che noi definiamo non appartenente alla sfera della sperimentazione, della certificazione della normalità. Umberto Visani, buongiorno. Buongiorno. Allora, Umberto Visani, io l'ho fatta ascoltare in silenzio alla prima reazione di un pubblico mediamente attento che ascolta una trasmissione radiofonica a una mia provocazione e sollecitazione. Umberto Visani ha scritto un libro che è molto interessante, perché è un libro che non appartiene al filone degli ufologi, ma nemmeno al filone dei totalmente scettici, di quelli che devono smontare il problema. Il libro è Mondo alieno, UFO ed extraterrestri nella storia dell'umanità, Aretuse Edizioni. Nel suo libro Visani dimostra che in realtà, ancor prima dell'idea che esistesse una guerra fredda, che esistesse un segreto di Stato fra i due grandi blocchi, Russia e America, da cui nasce tutta la trattatistica ufologico-aliena, esistevano delle certificate testimonianze di persone che avevano dei contatti con realtà molto simili a quelle che ci ha descritto adesso il Signore. O mi sbaglio, Visani? Assolutamente no, è verissimo, nel senso che tutto il folklore medievale di area celtica è pieno di resoconti di contatti con entità percepite come entità altre. Queste entità venivano, come dire, annoverate tra i cosiddetti fairy, il piccolo popolo, elfi, fate, folletti, tutti incontri che, se vengono analizzati e, come dire, esaminati nei minimi termini, presentano elementi totalmente parametrabili e paragonabili ai contatti moderni. Addirittura dal 600 ci sono testimonianze di persone che descrivono presenze che sono assimilabili a quelle delle ultime saghe fantascientifiche. Assolutamente, cioè cambiano solamente magari i parametri esteriori, ma i mitologemi sono gli stessi, nel senso che il tipo di contatto, l'avvistamento nel cielo, il rapimento, l'essere portati in un mondo esterno è differente. Mi faccia un esempio, così facciamo capire anche al pubblico. Beh, ad esempio, vi è un caso interessantissimo accaduto nel Galles nel 1600 di un soggetto che affermò di essere andato a portare, come ogni giorno, il suo bestiame e di essere stato coinvolto in una danza da parte di entità fatate che poi l'avrebbero portato nel loro mondo. E, elemento interessantissimo, nel loro mondo il tempo scorreva in maniera differente, al punto che il soggetto pensò di trascorrere quello che a lui sembrava un'ora, e poi, tornato a casa, scoprì che invece erano trascorse settimane. E ancora, diciamo, non c'era stata l'enunciazione della teoria della relatività. Esatto, questo è un elemento, appunto, che fa, come dire, quantomeno ipotizzare che possa trattarsi di un caso effettivamente accaduto, dal momento che è molto difficile pensare che una mente medievale possa giungere a ipotizzare la relatività del tempo, cosa che invece oggigiorno, quando le persone affermano di essere state rapite dagli alieni, parlare di missing time, ovvero di tempo perduto, nel senso di un trascorrere del tempo differente da quanto si è percepito, si potrebbe pensare che sia, come dire, un tocco di esoticità che viene anche l'idea di realtà parallele che non appartengano alla tradizionale idea degli esseri elementari, delle varie gerarchie angeliche e celesti, è qualcosa di singolare. Beh sì, perché comunque, secondo la cosiddetta teoria parafisica, le entità che oggigiorno chiamiamo aliene, che in passato venivano percepite come fairies, come angeli, come elfi, sono tutte entità che proverrebbero non da un mondo o da un pianeta differente, bensì da un piano del reale differente, quindi da una dimensione differente. Quindi sarebbe un'interpretazione di tipo verticale e non come se fosse un ipercubo in cui c'è una realtà che noi non conosciamo, oltre quelle che già conosciamo, in cui si svolge un mondo parallelo al nostro, in cui accadono un delle cose. Un mondo parallelo, esatto, e dal quale si palesano queste entità che, a seconda dei periodi storici, assumono volontariamente un aspetto differente, per cui non è tanto un problema di lente di ingrandimento dell'osservatore, bensì lo stesso fenomeno che si presenta in maniera differente, per cui le stesse ipotesi odierne di origine spaziale non sarebbero altro che un frutto della modernità. Alcuni ritengono che la ricerca di intelligenze extraterrestri dovrebbe iniziare qui, sulla Terra. Ne è un esempio l'autore Bud Hopkins, che ha intervistato dozzine di persone che sostengono di essere state rapite dagli alieni. Quando esamini questi casi uno per uno, ti rendi conto che sfuggono a qualsiasi spiegazione razionale. Ciò costituisce una prova inconfutabile. A quelle persone è davvero accaduto qualcosa di sconvolgente. E anche gli psicologi e gli psichiatri che analizzano questi casi spesso si convincono che quella gente ha avuto delle esperienze reali. 800 24 00 24. Oggi torniamo a parlare del problema delle presenze aliene. L'abbiamo sempre fatto con il sorriso, abbiamo sempre fatto con l'ironia, ma non è che oggi improvvisamente abbiamo abbracciato una nuova fede. Però ci piace considerare, all'ombra del pregiudizio che va oltre ogni altro pregiudizio, il fatto che esiste una storica e rilevata attività di avvistamento e di racconto riguardo a presenze che non hanno nulla a che fare con la specie umana, che merita riflessione, al di là di un fenomeno che è semplicemente relegato al tempo della guerra fredda. Adesso stavo nella pausa guardando, facendo una ricerca su YouTube, c'è un video che racconta che nel 13 luglio 33 un aeromobile sconosciuto precipitò presso Milano, e c'è tutta un filone trattatistica che vuole che anche al tempo del duce e di Hitler ci fosse un'attenzione rispetto al fenomeno alieno. Abbiamo al telefono l'autore di un libro interessante, che è Umberto Visani, che ha scritto Mondo Alieno, UFO ed Extraterrestri nella storia dell'umanità, a Retusa Edizioni, dove lui fa una ricerca documentale e vede che già in epoche non sospette, in cui non ci fosse precisa l'idea che se le grandi superpotenze si spartissero questo segreto irraccontabile dei contatti con una tecnologia che va oltre la nostra, si parlava di qualcosa di molto simile agli alieni. Fra tanti racconti ci sono quelli che dimostrerebbero che già allora c'era una percezione, prima ancora che ci fossero la scoperta di leggi fisiche, di teorie che questo rendessero dominio comune, che esistesse una realtà parallela alla nostra, un tempo assieme al nostro tempo però sfasato. Leggo la storia di una ragazza danese che stava camminando in occasione dei festeggiamenti per il suo matrimonio, arriva a un certo punto in questa radura, in un avvallamento dove c'era un'altra festa di matrimonio, e si unisce a loro, danza, balla, fino a che dopo un po' torna indietro a cercare il suo matrimonio e non trova nessuno, trova tutto cambiato, trova improvvisamente una vecchia che gli dice: ma come, tu sei quella sposa che 100 anni fa mi raccontavano che fosse scappata il giorno del suo matrimonio e non è mai stata ritrovata. Umberto Visani, a cosa si riferisce questo aneddoto che ho preso dal suo libro? Questo aneddoto riguarda appunto un caso molto interessante del Medioevo avvenuto in Danimarca, e ci dimostra come all'epoca vi fosse già l'idea che il tempo potesse non essere una costante, che potesse quindi scorrere in maniera differente a seconda dell'osservatore. E ovviamente prima delle impressioni di Einstein ci fa pensare quindi che effettivamente un caso del genere sia accaduto, quindi un contatto tra una persona terrestre e una realtà differente dalla nostra, una realtà in cui il tempo scorre in maniera diversa e quindi tra parallela, un mondo diverso. Quindi all'inizio io dissi che i due grandi dilemmi che mi piaceva vedere risolti erano la macchina del tempo e gli UFO. Alla fine è la stessa risposta, soddisferebbe entrambi? Nel senso che, come dire, i due fenomeni avrebbero tanti punti di incontro, nel senso che vi è anche una teoria secondo cui le cosiddette entità aliene non proverrebbero da un altro spazio, bensì da un altro tempo, comunque da un'altra dimensione. Ci sono anche alcuni ricercatori che affermano che sarebbero addirittura gli stessi umani che proverrebbero dal futuro e questi sarebbero responsabili degli avvistamenti. Però per scendere da questa teorizzazione è comunque interessante notare come sia effettivamente sia la tematica del viaggio nel tempo, sia quella dell'incontro extraterrestre di origine multidimensionale tendono alla fine a convergere. Ecco, andando avanti nella sua indagine, lei ha analizzato questo fenomeno degli UFO, degli UFO legati comunque a una storia recente, alla storia degli anni 30, le grandi dittature che avevano comunque un loro punto debole nella ricerca o degli avi primordiali iperurani, come nel caso del nazismo, o delle radici antiche che certificassero la civiltà italiana, avevano interesse anche a conoscere, a capire, a vedere come si concidesse l'idea di altre popolazioni che venissero da altri mondi. Sì, poi negli anni 30, come lei ha fatto menzione, vi è un caso interessantissimo di un presunto crash di un UFO vicino a Milano, a Magenta, un evento testimoniato da tantissimi documenti inviati al Centro Fotografico Nazionale, documenti che appunto attestano effettivamente la caduta di un oggetto sconosciuto. E da lì sarebbe poi nata tutta la, come dire, l'aeronautica tedesca di stampo avanzato, vi sono la cosiddetta ala Horten, la Unebu, tutti, come dire, tutti i velivoli che per la tecnologia dell'epoca risultano molto estranei alla stessa, molto avanzati sia per quanto riguarda le forme. Quindi la straordinaria ingegneria aeronautica tedesca aveva attinto da una sapienza che non era terrestre, aveva preso da questa caduta i dati per poter evolvere. È probabile, perché vi sono appunto dei modelli che effettivamente sono molto estranei all'epoca in cui sono stati prodotti. La cosiddetta ala Horten addirittura aveva un certo tasso di invisibilità ai radar. Il B2 americano, il B2 Spirit, è totalmente basato sugli studi dell'ala volante Horten, per cui è probabile che vi sia stato un riferimento di un oggetto che non era terrestre, come attestano documenti ufficiali del 33. Fermiamoci un attimo, Renato, buongiorno. Buongiorno. Chiuda la radio che c'è un eco aliena. Sennò. Buongiorno. Eccomi. Eccoci. Le volevo dire un mio racconto di una storia avvenuta circa 30 anni fa, dove abitavo a Testaccio, un quartiere popolare di Roma, e sulla piazza del mercato abbiamo visto, io e altri centinaia di persone, una sorta di piccola brocca luminosa fatta a facce, tipo un fiasco però ottagonale. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Ah, una brocca luminosa, quanto era grande? Era un po' alta, inizialmente era un po' alta, sembrava una cosa tipo un centinaio di metri, e tre punti luminosi che si spostavano a velocità pazzesca e si frenavano a velocità pazzesca. E questo avvenne al Testaccio, che anno era? Testaccio, circa gli anni 77, 30 anni fa, 30 o 31 anni. Ma ne parlarono i giornali? Ecco, questo è il punto, le dicevo, i commenti sotto, delle persone sotto, dicevano no, sono palloni, sono cose, è un riflesso lunare, delle cose, però niente, vabbè, domani vedremo cosa dicono i giornali, i telegiornali, siamo stati 2 o 3 ore e poi siamo andati a cena, il giorno dopo stessa cosa, e nessuno ne ha parlato, né giornali né televisione. Allora ho preso la macchinetta fotografica, un amico segnava due foto e cominciai a fare delle foto. Contattai un mio amico che abitava dall'altra parte, il tecnico del gruppo, che abitava dall'altra parte del quartiere, dice guarda Luciano, c'è una cosa strana, vieni a vederla. Un pochino mi chiama, ah, io non ho visto niente, mi ha preso in giro, mi ha fatto uscire da casa a quest'ora, bla bla bla. Terza sera, stessa cosa. Ah, quindi appariva puntualmente ogni sera la brocca luminosa? Col buio, le prime tre sere ci sono stati questi tre piccoli spilli luminosi che si muovono a velocità incredibile, e gli altri 2 giorni, perché l'abbiamo visto per 5 giorni, niente più. Il quinto giorno chiamai per l'ennesima volta questo amico, guarda, sta di nuovo qui, vieni a vederla. Dopo un pochino squilla il campanello di casa, e questo amico, si chiama Luciano, che si può contattare, mi dice, mi hai preso in giro, non c'è niente. Era assimilabile a quelle brocche che si vedono nelle osterie, nei bar, oppure? No. Cioè quanti litri avrebbe tenuto questa brocca? No, mi faccio finire un attimo solo il discorso. Viene questo mio amico, mi affaccio sulla piazza, non c'era. Ho detto, guarda, qui mi hai preso in giro. Andiamo sullo spigolo della cucina, che abitava ad angolo del palazzo. Mi affaccio, questo oggetto era bassissimo, si vedevano completamente i colori che pulsavano, erano dei vermi di luce, di specie vermi di luce, più scuri rispetto alla base del colore, tipo il giallo, era un giallo un po' più forte, il rosso porpora, e aveva delle vene violacee che pulsavano. Non è che l'ha vista una volta, dice, posso essermi sbagliato, era un momento, l'ha vista più volte. No, ma l'ha visto centinaia di persone. E al Testaccio tutti lo sanno di questa brocca? Al Testaccio tutti commentavano, ma guardavano questa cosa, tutti che aspettavano sul giornale o la televisione, commenti o un servizio, assolutamente niente. Per 5 giorni l'abbiamo vista. Poi prendo atto della sua testimonianza. Oggi le uniche cose luminose che si vedono sono quella specie di elicotterini che vendono gli indiani, che fanno volare in alto per invogliare i ragazzini a comprarli. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Sentiamo. Posso parlare? Certo, deve. Come dicevo, io lavoro alla Telegram, cioè lavoravo alla Telegram, adesso sono in pensione da un po' di tempo e sto ascoltando la trasmissione perché vi sento tutti i giorni, francamente. È una cosa meravigliosa e faccio i complimenti a lei e agli altri. Dico, lei è pratico di Napoli? Più o meno, ho fatto il militare, come si dice una volta. San Giorgio diciamo, a Cremano, proprio comunque. La zona alta di via Petrarca, sì, ho capito. È quella che porta poi su a Posillipo, e invece la zona bassa, la via Posillipo, è là dove è ubicato il circolo Canottieri Posillipo. Non so se lo ha sentito. Non ho frequentato, ma non ho dubbi. Sì, sì, quasi esiste. Sulla via Caracciolo, in effetti. Andiamo al punto, cosa accadde lì? Sì, accadde che io salivo con la macchina per andare verso via Petrarca e ho visto all'altezza del circolo Posillipo, sospeso in aria, uno di questi dischi, naturalmente luminoso, fermo a circa 400-500 metri d'altezza dal circolo Canottieri Posillipo. Mi sono fermato, ovviamente la curiosità, e mi sono lasciato attendere qualche minuto, insomma, per vedere. E cos'è accaduto poi? Che cosa è accaduto? Che improvvisamente questo disco è volato in un centesimo di secondo, non lo so, ed è andato velocissimamente a nascondersi dietro al Vesuvio. Ricevetti dei documenti che attestavano l'atterraggio di un UFO nel mezzo di White Sands, nel Nuovo Messico, che questo oggetto era inerte e sotto sorveglianza, e che ci sarebbe rimasto finché non si fosse capito se era ostile o amichevole. Poi si scoprì che era amichevole e che gli occupanti erano morti. Quando salimmo a bordo, trovammo 5 cadaveri, di taglia minuta, saranno stati alti circa 1 metro, 1 metro e 10. Il più alto sarà stato non più di 1 metro e 20. Lì per lì avemmo la sensazione che fossero tutti maschi. Quando tornammo in volo a Wright-Patterson per sottoporli a vari tipi di analisi, l'autopsia confermò la nostra prima impressione. Sì, però non l'ha visti mai nessuno. Ci sono delle foto, potrebbe aver fatto chiunque a qualunque cosa. Invece noi abbiamo, mi sembra di essere la Sciarelli a chi l'ha visto, una ulteriore testimonianza della brocca luminosa al testaccio. Giovanni. Sì, posso? Buongiorno. Sì. Guarda, se la ricorda? Se ne fa ne parlavamo proprio con degli amici, io sono del 76, premetto questo, abito a Testaccio, sono nato, ho sentito, ho acceso poco tempo fa proprio, pochi minuti fa, radio, e sentendo questa cosa ho avuto proprio questo déjà vu di ritornare indietro proprio di 2-3 sere fa. Questa cosa sì, è vera, successe proprio a Piazza Testaccio, eppure per sbagliate serie, con i cittadini che allertarono anche qui la caserma dei pompieri, perché poi all'angolo con via Galvani e la via Murata che porta a via Caio Cerzio, dove c'è la piramide, c'è una caserma dei vigili del fuoco. Lei si ricorda, intervennero i vigili del fuoco? No, vennero a vedere così, ma se dicevano che erano degli elicotteri, una cosa così, ma tante persone non credevano, anzi i giornali anche erano scettici, pensavano che si stava raccontando una bufala, perché sa, nel 77 a Testaccio non si voleva parlare ancora di UFO e oggetti extraterrestri. Cioè, oggi una cosa mi ha colpito, perché sentendo lei, un ex residente mi sembra che ha detto che sì, veniva qui, perché proprio giorni fa, sere fa, ne parlavamo con degli amici, con dei padri di famiglia, mi dissero, ha giurato, forse è rinato un anno dopo, però a Testaccio, a Piazza Testaccio, dove c'è il mercato, dove c'era il mercato, oggi non c'è più, perché è un mercato tradizionale, c'era la per qualche sera di seguito gli abitanti ebbero questo incontro ravvicinato con una specie di brocca luminosa di cui nessuno ha mai dato una spiegazione. Questo è un elemento importante. Daniela. Pronto? Sì. Sì, ecco, guardi, sono un insegnante e guardo, cioè osservo queste cose con un certo distacco. Tuttavia devo registrare un fatto che mi è capitato, io l'ho messo in maniera molto sintetica, ve lo trasmetto e voi mi dite se quella sera avevo mangiato pesante o davvero mi era successo. Nessuno sa meglio di lei se ha mangiato pesante, credo, non posso. Ho di qualche dubbio, adesso dalla descrizione glielo dico. Allora era notte, stavo dormendo, si tratta di questo. Era sola? A un certo punto, era sola? No, dormivo con altre persone. No, non voglio sapere quante persone. Sapere se era solo, c'era un testimonio o... No, no, io dormivo, quindi tutto si è svolto mentre io dormivo. A un certo punto ho visto, abito all'ultimo piano, un cono di luce dissolvente la materia che perforava il soffitto. Mi sono sentita sollevare verso l'alto e direttamente, quindi da questo cono di luce, sono stata introdotta in una camera operatoria con forte luce centrale e persone attorno. Io restavo vigile. Mi sono resa conto dai movimenti che erano ombre, perché la luce, io ero sotto un faro molto forte, mi sono resa conto che dovevano effettuare quello che potrei definire forse un passaggio di personalità, o perlomeno mi dovevano togliere la mia personalità. La classica sonda aliena che, guardi, non so, racconta che in tutti gli episodi del genere, che a un comunque, certo punto fanno un'operazione. Mi sono resa conto che potevo fare qualcosa in quelle condizioni, potevo tenere occupata la mente e opporre resistenza, e ho cominciato a recitare una preghiera che mnemonica, potevo fare anche una poesia, non so, tamo più. Comunque, il suo mantra contro questa operazione, per rimanere vigile. Infatti, a un certo punto sento, non è possibile, sta opponendo resistenza, non lo possiamo fare. E sono stata riportata giù, non lo so. A me è successo questo, e tra l'altro i fatti, a distanza di tantissimi anni, sono veramente molto nitidi e ancora molto precisi. Questo mi lascia un po' dubbiosa, perché se io mangio pesante il sogno poi si dissolve nel tempo. Questo invece mi risulterebbe come un'esperienza. Ma... non aveva nessun... Dopo quel giorno non ha avuto nessun cambiamento nel suo corpo, nella sua mente, nel suo comportamento? Molta stanchezza, l'indomani ero stanchissima. Vorrei vedere. Mentalmente dico, come se avessi, non so, fatto un esame all'università, una cosa del genere. Questo è quanto, guardi, non la trattengo più. No, Daniela, lei ha raccontato esattamente un copione che ormai fa parte della casistica più nota. Chiudiamo velocemente, ma ritorneremo su questo argomento, vedo che c'è un grande interesse, non è detto che sotto le feste ne riparleremo. Umberto Visani, velocemente, di tutte queste testimonianze di cui lei avrà comunque modo di fare confronto con le storie che ha trovato nel suo libro, come mai non rimane mai qualcosa di concreto, qualcosa di oggettivamente e condivisibile e che ne sia prova, secondo lei? Il fenomeno abduction, rapimenti, è molto evanescente, nel senso che vi sono teorie secondo le quali sarebbe un fenomeno che viene indotto dall'autoproduzione endogena di metiltriptamina, un alcaloide prodotto dal corpo umano, che fa sì che la nostra mente venga proiettata in questi mondi differenti. Allora guardi Visani, siccome non la voglio interrompere, c'è la sigla che ci interrompe, noi ritorneremo entro la fine dell'anno su questo argomento, o i primi giorni dell'anno nuovo, visto che è molto interessante, abbiamo centinaia di telefonate. Ci sentiamo lunedì.